avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Quanto ci piacciono le letture cattivelle della realtà? Quanto ci piace far vedere gli aspetti tristerrimi, vergognosi, nascosti, limacciosi della nostra realtà? Ci piace perché in fondo il carezzevole buonismo, il meraviglioso chierichettismo è qualcosa, sì, che generalmente soddisfa le masse perché si sentono tranquillizzate, ma in realtà non appaga quella nostra sete sanguinolenta di vedere gli aspetti oscuri della realtà. Perché noi amiamo il politicamente scorretto? Il politicamente scorretto ormai è diventato un esercizio manierista. Il cattivista di mestiere fa ancora più pena del buonista per professione. Esiste una tradizione nel racconto fantastico della realtà che segue questo filone. Il filone di mostrare attraverso lo sguardo crudele, cattivo, come potrebbe vedere il mondo il nostro compagno di classe, quello cattivo, quello che sezionava le rane, quello che staccava le zampette agli insetti, quello che sembrava godere delle disgrazie degli altri compagni di scuola. Andando avanti nel tempo, come poteva vedere, come potrebbe vedere il mondo, il nostro collega è quello che non guarda in faccia nessuno, quello che cinicamente sarebbe disposto a vendersi la sorella per fare uno scatto di carriera. O andando avanti ancora, come potrebbe vedere la realtà, la persona della strada che vediamo con un sorriso di appagata soddisfazione quando vede qualcosa che altri fa soffrire, altri mette in imbarazzo, altri mette in serio pericolo. Beh, oggi dedicheremo la nostra puntata assieme a Giuseppe Sansonna proprio alla storia del politicamente scorretto. Cos'è, un suo parente il giovanotto? Tu canta, canta. No, è un amico mio, ma siamo come fratelli. Io ci do una mano per farci guadagnare qualche soldo, poverello. Ma non avete pensato mai a farlo visitare da qualche specialista? Perché c'ha via i denari, no? Meglio aspettare la grazia di Sant'Antonio. Io non sono affatto d'accordo. Mette capo, eccellente, mette capo. Secondo me invece c'è qualche cosa da fare. Ma di dove? Dai, buon. Naturalmente, prima dovrei visitarlo con calma, esaminarlo bene. Ma ci sono molte speranze. Ma come, di riacquistare la vista? Capisce? Vede quel cartello clinica oculistica? Lo vedo. Ecco, io ho l'ambulatorio lì. Ho capito. Se lei me lo porta oggi gli facciamo una bella visita. Sì, come no. Naturalmente tutto gratis. Grazie, ma no, non lasci andare. Troppo generoso, quando possiamo? Anche subito. Guardi. Ah, benissimo. Chieda del professor Pinzuto. Pinzuto, benissimo. Pinzuto, certo, signor, pianeta della fortuna, veniamo subito, grazie. Ciao. Alla vostra bontà, alla salute. Andiamo, Michelino. Fai fermo. Andiamo via. Ah, niente, il commissario della zona ha detto che se ci ritrova qua ci mette in galera, dobbiamo sloggiarci, andiamo ai Parioli dove ci stanno i signori e facciamo i denari. Naturalmente il picaro di strada se ne guarda bene da portare il suo compare di elemosina cieco a togliergli la cecità o perlomeno a tentare di curarlo. A lui serve un cieco perché il cieco è uno degli accessori indispensabili di chi questo ha per strada. Giuseppe Sansonna, cominciamo ad addentrarci in questo territorio che poi è ben frequentato, è politicamente scorretto, in realtà è perfettamente integrato nel sistema, fa parte comunque del racconto del mondo. Qui in questo caso in che anno ci troviamo e in che tipo di rappresentazione del fenomeno? Qui siamo nel 63, è un episodio dei mostri, i due orfanelli in cui c'è Gassman, mendicante diabolico che batte i sagrati col suo cieco, e quando davanti all'opportunità di perdere la disgrazia, quindi di perdere l'opportunità di accalappiare denaro, ovviamente si tira indietro. Ma Risi era un sommo crudele. Io e Intonti ricordiamo un episodio celebre di qualche anno fa in cui ci fu questa telefonata in una serata di gala, una telefonata in diretta di Peppino Di Capri che disse: maestro, lei ha usato sempre le mie musiche, io le do il mio cuore. C'era Risi ridotto ormai a un cencio poco prima di morire che disse: il cuore, la mamma, la patria, che cosa hanno portato se non morte e distruzione? Gelando una platea, insomma, di umarelle, come diresti tu. Che molte volte di fronte a così radicali, fantastiche, gloriose rappresentazioni dell'oltraggio ad ogni melliflua e leccaculistica versione della realtà, perché se come me la racconti te, lo sento oggi per la prima volta l'episodio, Peppino Di Capri voleva ancora una volta ribadire il suo stereotipo, il suo personaggio, la venerazione verso il maestro, la gratitudine sommessa per il fatto che, usando le sue musiche, avrà creato a lui ottimi proventi di SIAE. Quindi evidentemente c'era tutto un sottinteso non detto, e il maestro l'ha giustamente fulminato con quella cattiveria abissale che hanno le persone che sanno già di essere morte, di essere da un'altra parte, di essere al di sopra del bene e del male e potersi permettere appunto questo. 800240024. Quanto siete stati cattivisti nella vostra vita? Quanto il cattivismo fa parte delle vostre maniere di porvi nei confronti del mondo? Quanto avete sofferto, avete gioito per una fantastica e improvvisa esplosione di cattivismo? Oggi siamo quasi 4 miliardi sulla Terra. Fra 20 anni, 7 miliardi. 7 miliardi? Sì. E sa qual è il peso degli escrementi che un individuo evacua al giorno? Ma io non saprei, un 2 etti e mezzo. 2 etti e mezzo, molto di più. Pensi che l'urina pesa più dell'acqua? No, tutto compreso, io direi 1,5 chili. Moltiplichi per 4 miliardi e fanno 6 miliardi di chili al giorno. Fra 20 anni, più di 10 miliardi di chili. 10 milioni di tonnellate al giorno? Esattamente. Diavolo. È veramente preoccupante. Sì. Sì? Quante tonnellate ha detto? Più di 10 milioni. Questo di tonnellate. È il mondo rovesciato nel graffio surrealista di Buñuel. La buona borghesia si siede a tavola invece che su comode poltrone, seduto su tazze del gabinetto. Stirano giù pantaloni e mutandine le donne, si siedono e il momento conviviale ha questo tipo di argomento. E l'unico ospite deve fare qualcosa di schifoso, chiede dov'è il bagno, va in uno stanzino e mangia. Mangia con una schifosità tale che si capisce che è plausibile il rovesciamento totale delle nostre funzioni corporali, dando alla più detestabile e innominabile la dignità di argomento di conversazione, dando a quella che è più convivialmente piacevole, che è il mangiare, stigma e condanna da consumare in un luogo nascosto, dimostra che poi tutto è possibile, tutto è plausibile. Sì, la borghesia da salotto appunto può avvolgere coi suoi birignao, con le sue riviste patinate che sfogliano mentre sono seduti su questi cessi smaltati in maiolica, possono appunto parlare di tutto, commentare tutto, e quando poi invece il borghese si alza e appunto va a consumare avidamente il suo pasto da mensa in bagno e poi bussano, appunto si rovescia tutto. Questo è il paradosso surrealista di Buñuel, che eredita la crudeltà artodiana, cioè questo è il paradox contro l'opinione comune, che una crudeltà che però nasconde un'etica, non è il cattivismo generico che stigmatizzavi tu prima. Dobbiamo noi fare una distinzione, perché oggi il cattivismo è diventata anche una materia abbastanza frequentata. L'essere cattivista è la prima cifra che distingue, non so, l'ospitata televisiva è fatta di cattivisti. I grandi opinionisti sono i cattivisti, sono quelli che parlano male dei personaggi intoccabili del mondo dello spettacolo, ma al parlarne male da loro esistenza, consistenza. Se non ci fossero le signorine, i giovanotti, gli extronisti, i post grande fratellisti e via dicendo, che fanno la loro cattivella lettura della televisione, non ci sarebbe televisione. Io nella mia vita per una decina d'anni ho guardato e raccontato con occhio anche cattivo la televisione. Ho smesso di farlo quando ho visto che è diventato un esercizio di manierismo. Ogni piccolo blogger, ogni signorina di buona famiglia, ogni studentessa di scienza della comunicazione era diventata una critica cattiva, dalla penna cupinata che non ne lascia passare uno. È un bersaglio sin troppo facile, conviene essere buoni in questo caso. Sì, non feriscono nessuno. Si auspica una televisione alla Videodrome, in cui appunto il tubo catodico ferisca finalmente, cioè, non so, uno tsunami all'Isola dei Famosi. Queste cose qui potrebbe, forse il linguaggio deve cambiare in questa direzione. 800240024. Il tema è chiaro. Oggi dovete dirmi quanto l'esercizio del cattivismo vi appaga, vi soddisfa, vi compiace, o quanto lo trovate ormai abbastanza logoro, visto gli esempi illustri vi stiamo mostrando in cui il cattivismo, in cui il dileggio, in cui l'invettiva è maneggiata a regola d'arte, diventa una forma di espressione poetica. Non soltanto nel cinema come espressione primaria, principale, aura di questa possibilità, ma anche in una maniera espressiva che alle nostre latitudini viene erroneamente considerata come un genere da bambini. Quello che facciamo sentire è un cartone animato che la maggior parte degli italiani pensano che sia destinato ai loro figli, infatti va anche in orari pomeridiani. Non c'è cosa migliore nella controra che guardarsi in famiglia i Simpson in televisione, che guardano appunto la televisione. Rosco è il capo di questa acciaieria. Lui ci farà fare un giro per mostrarti i veri uomini ai tanti mentre fanno quello che sanno fare meglio. Perché diavolo dovrei vederli? E ringrazierai la prima notte di nozze. Sì, ragazzi, fate tutti un bel saluto ai nostri amici Simpson. Ciao. Possibile che tutto il mondo è impazzito? Fermo, sta fermo. Hai una scintilla nei capelli. Santo cielo, levati, prego. Papà, perché mi hai portato in un'acciaieria di gay? Non lo so, è tutto un incubo. Siete tutti malati. Ma no, certo, carino. Oh, mio figlio, non ha via di scampo. Il mondo intero è tutto gay. Oh, mio Dio, e ora che succede? Noi lavoriamo sodo e ci divertiamo sodo. Matt Groening, quando pensò e concepì i Simpson, pensava a una famiglia media. In ogni membro della nostra famiglia o delle famiglie che conosciamo c'è sempre un Simpson, un pezzetto di Simpson dentro ognuno di noi. Io a volte sono un po' Homer Simpson, una volta sono un po' Flanders, una volta sono il cattivo adesso non mi ricordo come si chiama esattamente, un momento di Barnes, ecco. Io vorrei essere Krusty Clown, per esempio. Krusty Clown. Ognuno di noi ha un pezzettino di questa famiglia di gialluti esseri cattivissimi. In questo caso Homer ha il sospetto che Bart Simpson, il figlio che tutti vorremmo, fosse gay, e quindi lo porta in un posto dove pensa ci siano uomini virili, e invece entra proprio in una congrega dichiarata di gay esternanti ogni caratteristica che lui giudicava abominevole, e il mondo gli si rovescia, non so più cosa pensare. Sì, sono membruti operai alla Village People. I Simpson sono un cavallo di Troia che da più di 20 anni propone, appunto, anche su reti generaliste, appunto, una visione a più livelli, molto feroce. Io molto me ne guarderò 4-5 al giorno, perché sono sia sui canali Sky sia su Italia 1. Se ti alterni ne puoi vedere 4 episodi al giorno, se va bene. Ci sono 5-6 punti di incandescenza in ogni puntata, direi una raffinatezza e una genialità che appunto non sovvertono un'opinione comune, prendono in giro l'omofobia ma allo stesso tempo anche i cliché degli omosessuali. C'è un punto in cui il prete dice a una congrega di omosessuali venuti a sposarsi a Springfield: tornate ai vostri posti dietro le quinte del mondo dello spettacolo, quindi facendo riferimento alle lobby. Non risparmiano nessuno, con sottigliezza però. Soprattutto nell'organizzazione familiare, la famiglia Simpson in realtà è un verminaio assurdo, questa madre perfetta con questa capigliatura azzurra e surreale che quando è troppo depressa gli casca a pezzi creando dei grossi buchi, che a un certo punto anche lei si lascia tentare dal club delle signore del paese, vuole fare la vita mondana, la figlia saccente, sapiente ma noiosissima, crescendo già si capirà piena di problemi, piena di complessi. Bart che sogna di essere un mafioso da grande, un tagliagole, la piccola muta che parla con il ciuccetto in bocca, che a un certo punto si scopre in una puntata che è figlia di extraterrestri che hanno fecondato la madre in maniera impropria, quindi le spuntano i tentacoli, e Homer quando vede cadere le gambine e spuntare i tentacoli, le sono cadute le gambine da latte. È un'assurdità totale. Il linguaggio è straordinario. Poi c'è l'ottusità carica di buonsenso di Marge, che ricorda molto una versione acida di Marion, la nostra amica Marion, la fedifraga con Fonzi, come ricorderai, con quella tesi che portammo avanti qualche tempo fa. Il debito coniugale che lei debba molto spesso soddisfare del marito, che è sempre ubriaco e passa le serate in birreria, vive soltanto per il cibo, è un'otre di cibo, di vizi. Il suo lavoro alla centrale atomica è un lavoro deleterio, provoca incidenti continui. La polizia, che è il volto suino del commissario Winchester, appunto corrotto come il sindaco, che è pieno sempre di donnine, di escort vari. 800240024, il pubblico forse ancora non abbiamo ben comunicato al pubblico la nostra intenzione. Vado più nel profondo: quanto nella vostra vita avete avuto comportamenti che giudicate politicamente scorretti? Quando vi siete comportati nei confronti di persone con voi buoni, gentili, affabili, in maniera crudele, in maniera cattiva, per il solo piacere di vivere l'altra parte della forza, quella forza oscura, quella che dà brivido e senso di onnipotenza? Sto seminando zizzania, lo so, ma fa parte anche del mio mestiere. Io oggi c'ho un sacco di problemi, capito? È una giornata un po' pesante, difficile da portare a casa, capisci? Perché dici capisci? Pensi che sia uno stupido solo perché il colore della mia pelle è diverso dal tuo? Forse vuoi che la dica così? Zi padrone! Ma no, ma che dici? Magari con le sveglie al collo, con l'anello al naso. Quell'anello al naso? Sei un attore, di la battuta com'è da sceneggiatura. Forse vuoi che ti chiami Ariana, razza pura. Per favore, qui stiamo tutti lavorando. Verrà un giorno che la mia gente si ribellerà di tutto questo, il vostro modo di fare, la vostra mentalità. Scusa, adesso sembra un po' retorico. Verrà il giorno che la mia gente, il mio popolo scenderà in strada, vai. La mia agente, la mia agenzia, eh? Perché non posso avere un'agenzia io, eh? Così razzista sei tu. Il bover negro non può avere manco un'agenzia, guarda qua. Ma no, ma che c'entra il razzismo, no? Ecco, questa invece è una serie televisiva, un film che sta avendo un grande successo e ha successo nel côté più politicamente corretto che possa esistere. C'è stata una nota querelle con Serena Dandini che diceva è un mito, è un cult, dobbiamo per forza seguire Boris, con altre persone invece dicono ma come mai, questo è un mito, altre cose no. Insomma, Boris è politicamente scorretto ma piace a tutto il fiorfiore del buonismo nazionale. Come mai? Dandini riesce a volgere dalla melassa mediatica tutto, quindi a neutralizzare tutto, una volta che viene contornato, divanizzato e tutto si neutralizza e tutto si vanifica, però conteneva soprattutto nelle prime puntate, nella prima serie, delle feroci sferzate. Boris racconta come specchio dell'Italia, racconta il movimento interno biologico di una troupe che produce una delle orrende fiction ammiraglie della RAI, quelle in cui si sistemano amiche dei politici, ma allo stesso tempo si produce qualcosa che annichilisca l'immaginario collettivo, no? Per esempio una frase celebre del direttore della fotografia e dice: io faccio una fotografia schifosa, smarmellata, perché deve assomigliare alla pubblicità, in maniera che la gente non cambi canale, si banalizza l'ovvio. Qui, in questo frammento che abbiamo scelto, c'è una derisione anche degli aspetti paradossali del razzismo, no? Appunto, cioè, la demistificazione anche dal punto di vista delle crociate antirazziste, quindi c'è la comparsa di colore che appunto impugna una causa e poi la mia gente, il grido pasoliniano di Alì degli occhi azzurri diventa la mia agente, insomma, quindi tutto si banalizza, tutto finisce nel vano. Andiamo avanti, sentiamo un'altra parte di Boris. Noi ci assicuriamo che qualora tu ti faccia male, o non ci siamo visti, non ci conosciamo, non abbiamo nessuna responsabilità, chiaro? Questi invece sono gli assegni della settimana. Che a me non mi spettano, giusto? Esatto, però tu li firmi e poi mi ridai. Assegni mi ridai. È un mondo difficile, ragazzi, che ci vuoi fare? Ci stiamo dentro con tutte le scarpe. Ma tu sapevi tutto, no? Sì, sì. Allora, ecco, infine Giuseppe Sazzon, allora, sempre in Boris è un grande backstage anche poi del mondo della rappresentazione per eccellenza che è la televisione. Mostrare un po' gli aspetti della corruttela, dell'ipocrisia, del doppio pesismo nella televisione è anche un gioco un po' facile, dico la parte mia. Sì, però qui per esempio c'è una dinamica che si può riproporre in qualsiasi contesto di lavoro. Lo stagista, che può essere il mondo della televisione ma può essere quello anche di un'azienda di autospurgo, è la stessa cosa. Uno costretto a firmare questa sorta di cessione di tutti i propri diritti personali ed essere formare il contratto capestro. Qui il direttore di produzione ha la faccia laida e sublime di un grande attore come Di Stasio, appunto, che dice me li ridai, voi gli assegni me li dai, insomma c'è tutta questa avidità ostentata senza veli. In questo è politicamente scorretto, anche se a me non piace come termine politicamente scorretto, si può rendere l'idea. Però rende l'idea, per convenzione lo usiamo, diciamo che anche impropriamente usato in questo caso, però è questo, è il cattivo di mestiere oppure il cattivo di facciata, oppure mostrare il lato cattivo omettendo sempre del cattivismo di casa propria, perché è facile mostrarlo laido. Mostrerei la stessa situazione con un raffinatissimo regista impegnato, autore di programma impegnato, che è altrettanto aguzzino. Infatti sarà identico nei confronti dei propri negri, fra virgolette, cioè certo, portatori oscuri di opera dell'intelletto. Indubbiamente è la stessa, ti posso garantire. Elena, buongiorno. Sì, salve Gianluca. Il mio saluto e il mio grazie per la vostra bellissima trasmissione. Vabbè, adesso mi fa la mielosa, la buonista e la lecchina ad essere cattiva, sennò che senso ha? Sì. Giochiamo a fare i cattivi. Gianluca, io ho provato quella sottile cattiveria partecipando ai tornei federali, nazionali di Burraco, quando con un attimo metto in difficoltà. È un ambiente pesante, in effetti, devo dire. Torbido. È torbido, sì. Tocca i bassi fondi. Allora, il torneo di Burraco cosa ha fatto di cattivo? Faccio credere, metto in difficoltà, faccio credere di avere più gioco, meno gioco, per mettere quanta ferocia, sottile, no, mamma mia. Cattiveria. Ma come fa a dormire tranquillo per aver usato tanto? Scusi Gianluca, mi dica. No, dico, come fa a sentirsi poi in pace con la coscienza dopo aver fatto soffrire tante povere signore, povere pensionate che magari in quel Burraco impegnano tutte le loro risorse e lei osa non mostrare le carte o simulare, bleffare nel suo gioco? Beh, una cosa leggera. Mica tanto. Io sono pensiero. Siccome me l'hanno fatto a me, allora dico, qualche volta. Caino, persone, Caina, signora. Io penso che dovrebbe confessarla questa colpa. Se le ha fatte soffrire. L'epoca, quando tornavano a casa, secondo lei soffrivano queste signore? No, dopo ci siamo sempre chiarite. No, è una sottile cattiveria. Ha avuto un momento di gioia quando le vedeva in difficoltà? Anche. E avrebbe esagerato, avrebbe continuato. Magari avrebbe voluto vederle soffrire, vedergli schiattare un'arteria, avere un attacco di colite inarrestabile dal dolore, o si sarebbe fermata semplicemente a vedere il loro volto sconsolato e triste? No. Senza colite. Vabbè, allora, no. Merita il purgatorio e non l'inferno come pensavo all'inizio. 800 24 0024. Informazioni dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ma te, l'universo vero, cos'è, qual è? L'universo? La teoria vera dell'universo. No, il paradiso. Ma lascia perdere, no, la teoria vera dell'universo, lo sai qual è? Quella del Big Bang, quello che però non si... No, la teoria attuale dell'universo, quella vera, ci stanno le equazioni, ti puoi andare a vedere, no, è fantasia, metafisica, la teoria dell'universo si chiama M-Theory, è l'evoluzione della teoria delle stringhe degli anni 70, praticamente dice che ci stanno 11 dimensioni e infiniti universi paralleli. No, scusi, lei crede a questo, quindi? No, credo a questo. Questa è la realtà, ci stanno le equazioni, fatela vedere. Matteo, sai che se ti metti in orbita in un certo modo rispetto all'orizzonte degli eventi di un buco nero super... Qualche piccolo dubbio teologico, Don Pizzarro di Corrado Guzzanti, probabilmente forse il miglior autore e interprete di satira che abbiamo in Italia. Giuseppe Sanzon. Sì, qui Guzzanti recupera quella papalina, quel papalino cinismo che ha Paolo Stoppa, insomma, crea uno dei suoi migliori personaggi, che Pizzarro è come il giocatore della Roma, ma anche ha un eco di Navarro, il portavoce vaticano. Al disincanto romano di chi non crede a nulla, di chi vede il solido nulla leopardiano e poi si concentra sulla scienza, quindi non ha illusioni, questo è fantastico. Creato attraverso appunto una forma comica, qui la crudeltà serve a disvelare delle grosse verità, delle grosse intuizioni, insomma è una sorta di saggio questo, vale più questo come saggio che tanta letteratura. Infatti questo è un esercizio sublime dell'arte della cattiveria, non è il cattivismo del borgataro che se la prende con il poveretto perché magari è vestito più sfigato. Andrea mi mostra e mi riproduce su Facebook una bellissima piastrellina di ceramica istoriata di fiorellini che ha fotografato dal cucinino della sua dolce nonnina, e c'è scritto in bella calligrafia, immagino questa signora con quanto piacere la esponesse ogni ospite di casa: muore la pecora, muore l'agnello, muore il bue e l'asinello, muore la gente piena di guai, ma i rompicoglioni non muoiono mai. Andrea, buongiorno. Buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti gli amici di Radio 24 e di Melog. Comincia troppo bene, troppo buono sta cominciando. Il Melogman è fedelissimo, ti ricordi di me, l'inventore del polisicchio? Ah sì, ex carabiniere, eri ex poliziotto. Esatto, confermo. Dai, al volo allora. Ah, eri tu che hai messo, vedi, ho beccato al volo, la piastrella l'hai messa te. Certo, è anche le altre che ti sto mettendo sul tuo bellissimo sito. Allora dai al volo, se no ti seguo. Dai. Niente, il cattivismo è un qualche cosa di veramente innato. Ne ho viste tante di cose incredibili in tanti anni di carriera, e di persone che venivano in caserma con una cattiveria veramente mai vista. Per esempio quelle persone che arrivavano... Beh, tu come carabinieri li potevi segare tranquillamente, li facevi capire chi comandava quel come volontè in indagine. Sì, ti dico, erano proprio persone ciniche, invidiose, sadiche, maniaci, depressivi, quelli che... Ah, venivano a fare denunce di altre persone? Sì, sì, no, contro tutto e contro tutti. E ti dico una cosa... Un esempio prima che parta la motosega. Sì, nella sapienza quella casertana, avevano una dote incredibile che è la cazzimma, non so se tu la conosci, sì. L'hai mai sentito parlare. Sì, è abusato anche come termine, devo dire, oggigiorno. Sì, quando l'usa qualcuno da Napoli in su diventa un totale abuso. E infatti il bravo Siani, dicevo, un milanese che gli ha chiesto: ma che cos'è la cazzimma? Moriremo senza sapere cosa sia la cazzimma. La cazzimma è la motosega. È la motosega. Carlo, buongiorno. Buongiorno. Mi piace quando è cattivo, Nicoletti. Ma non sono mai cattivo, sono di una bontà unica. Andiamo avanti, andiamo al punto, abbiamo poco tempo. A 16 anni ero innamorato di una ragazza e guardavo solo quella. Ce n'era un'altra. E quello era il problema. Che si chiamava Antonella, che mi veniva dietro. Io sono stato molto cattivo e le ho detto che aveva il culo basso. Ad Antonella? Ad Antonella. Invece ad Antonella doveva dire che la sua fidanzata aveva il culo basso, ci stava soltanto per obbligo, le sarebbe carnalmente concessa Antonella subito per gratitudine e di rimando poteva continuare a consumare con la fidanzata, l'avrebbe avuta entrambe. Me ne sono pentito e infatti adesso dopo ben 53 anni, no, 43 anni sono, mi spiace essere stato cattivo. Ma non fu cattiveria, posso dire Carlo, fu un gesto d'amore nei confronti della sua lecita fidanzata, lei sentiva di dover difendere la virtù della fidanzata, e sbagliò che non bisogna mai fare. No, perché poi si è offesa, poverina, per tanto tempo, magari ho cambiato il suo copione di vita, però adesso... Spero che a 50 anni abbia capito le soddisfazioni, può dare anche un culo basso, quindi ciò le servirà anche di gli è stato, gli è servito immagino lezione di vita. Francesco. Sì, pronto, sarò velocissimo se non mi sega. Certo. Allora, la cosa è semplicissima. Potrei farlo comunque, a priori. Sì, va bene, io ho questo amico che era un... poi non è più un amico perché dopo quello che è successo, che ogni incontro, ogni volta nei locali eccetera, se laminava che aveva questa fidanzata buona, meravigliosa, onesta, eccezionale, e quindi la lasciava molto a briglia sciolta, a che gli consigliavo, guarda, stai attento che è anche la più onesta in degeri, ma potrebbe eccetera, ma lui, ma quando mai, non conosce la mia fidanzata. E lei gliel'ha castigata. Esattamente, poi durante la sera in birreria io... lui si parlava di uno che aveva divorziato proprio per ragioni di corna e lui di nuovo ha asserito, ma la mia fidanzata non lo farebbe mai perché è meraviglioso. Allora gli ho ricordato che la sua fidanzata aveva due nei identici sulla chiappa sinistra. Però vede, posso dire una cosa? La vera cattiveria sublime era avergli piacevolmente intrattenuto la fidanzata, ma non dirglielo. Diglielo è una bassezza, un uomo non dovrebbe mai... dire. Capisce. Una bassezza, lei doveva... godere intimamente del fatto che lui continuava a vantarsi e lei sapeva che nell'intimità in realtà era una affocata carnalmente disponibile fidanzata, dicendoglielo è un gesto da Umarell, un uomo non dice mai, non ammette mai, è una bassezza, mi creda veramente, la vera cattiveria è averlo fatto, ma è anche un atto di giustizia, devo dire, quindi non è una cattiveria, non c'è nulla di crudele. La crudeltà era semmai nel continuare a compiacerlo e a fargli credere questa cosa, dicendoglielo. È un atto, secondo me, che nulla a che fare con la cattiveria, è un po' meschino. Gianluca. Buongiorno, io sono un neurologo e ho studiato questi meccanismi. Si chiamano piacere paradossale, cioè ci sono delle situazioni particolari, soprattutto legate alla precarietà, al senso di bassezza, appunto, di inefficienza, di disistima di se stessi, e il cervello è portato a sollecitare il dolore, per cui un ulteriore dolore diventa piacere paradossale. Quindi è una sorta di atto di sadismo allo stato latente embrionale. Sì, esatto, ma avviene attraverso le soglie. Occorre stare in una condizione di precarietà per vivere il piacere paradossale, che è l'odio, la rabbia, la... Ma non trova, guarda, io rispetto la scienza, per cui ho somma venerazione, ma esiste anche un paradosso filosofico, letterario, poetico, uno può giocarci proprio come elemento di rottura con la banalità del quotidiano. Io non ho piacere nel dire cattivere, mi fa sorridere l'idea di vedere l'imbarazzo, la vicenda della fidanzata bivalente di quel signore. Sì. Lo trovo eccessivo averglielo detto, non è un atto di cattiveria, è un atto di meschinità. Sì, no, certo. La vera cattiveria è divertirsi a sentire questo quanto è cretino a tessere le lodi di una che la dà al mondo intero. Certo, però il piacere consiste proprio nel sadismo, nel fare del male all'altro e goderci. Ed è quello che è successo nel nazismo, con gli ebrei, col cannibalismo. Sì. Insomma, sono momenti dove la precarietà può innescare in maniera automatica, quindi inconscia, la ricerca di questo piacere, che è appunto qualcosa che dovrebbe produrre dolore. Abbiamo capito, lei ci ha dato una lettura scientifica di quello che noi stiamo semplicemente allucinando come una forma dilettante di espressione e di lettura della realtà. Maurizio. Eccomi qua, temo che tutte le altre telefonate siano dilettanti rispetto alla mia cattiveria. Vediamo. Sono passati un po' di anni, dovevo avere un appuntamento di lavoro, era molto importante ed ero tremendamente in ritardo. E ho preso un autobus, vivevo a Milano, e solo che non avevo fatto in tempo a fare il biglietto. A un certo punto, sperando che non mi fermassero i controlli, vedo purtroppo i due controllori che salgono sul pullman e cominciano a chiedere il biglietto. E io non sapevo come fare, mi guardo intorno cercando una via di fuga, guardo per terra e vedo un biglietto. Mi sembrava valido. E allora con la mia solita fortuna prendo questo biglietto e con molto orgoglio do il biglietto al bigliettaio che me lo timbra. A un certo punto la signora di fianco a me, disperata più di me, comincia a cercare il suo biglietto che non trovava. E il controllore diceva: signora, ma lei sta cercando di prendersi in giro. E lei era... Il problema era il suo biglietto. Ero consapevole di questa cosa ed ero da una parte tentato. Poteva fare un gesto da garrone, ci sono stato io. E invece sono stato proprio cattivo. E però questa cattiveria, insomma, era anche un po' divertente la situazione. Per questo credo che sia stato proprio cattivo. Quindi lei vede che l'imbarazzo della signora un po' ci ha goduto. E un po' ci ho goduto, anche perché poi alla fine... Cosa hanno fatto? L'hanno portata fuori di forza? No. Hanno creduto nella sua buona fede proprio vedendo quella disperazione. Allora, come sempre, i buoni si salvano sempre. In fondo, infatti, una povera vecchiettina in lacrime ha fatto bene a rubarle il biglietto, anzi, doveva farlo in maniera volontaria e proditoria, sin dall'inizio, piuttosto raccoglierlo per terra. 800 24 00 24. Dopo il traffico, ci sentiamo. Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ciao papà. Ciao Luca, vuoi smettere di martirizzarti di sega davanti a sto cazzo di computer? Guardate, mi pare il fio da merda. Esci un po', cazzo, fai qualcosa e smetti di rubare i soldi a tuo padre. Papà, stavo controllando la porta. Ma vaffanculo, Gianluca, ma che cazzo dei controlli? Tu ti controlli le palle! Tanto fino a che stai qui dentro, sta cazzo di cripto puzzolente, le palle ti restano mosce! Gianluca, ce l'hai la ragazza? Sì, è Fabiana, l'hai conosciuta, la maestra d'asilo. Maestra d'asilo, bravo! Con una pederasta come te sei messo! Con sta poveraccia morta di sonno, proprio una bella coppia fate! Poi si sa che maestra d'asilo sono tutte suore! Dai, non romper cazzo, che oggi papà ti porta... Questo in assoluto... Non perché il figlio disgraziato di questo crudele, schifosissimo padre abbia il mio stesso nome, e il ritornello è proprio questo, il padre che invece contro il figlio, che odia, che tratta male, il figlio è raffinatissimo, ama la musica, studia, e c'ha un padre schifosissimo, che lo porta in situazione, lo porta a spacciare la droga, lo porta in locali equivoci, lo fa picchiare, bastonare, lo mette in situazioni, in questo caso lo vuol portare a donne, in realtà lo porta in un night e finirà preso a botte, via dicendo. Ecco, è in questo momento la sitcom più cattiva che possa esistere sulla televisione italiana. La trasmette MTV, è I soliti idioti. Non so se approderà mai alle reti grandi ufficiali dei grandi network. Perché? Perché è veramente cattiva, è veramente profondamente crudele. Giuseppe, tu l'hai vista? Sì, è una versione aggiornata di In viaggio con papà, dove il cattivo Sordi col foulard commendatore brutalizzava un ingenuo sprovveduto Carlo Verdone. Però mi hanno segnalato una serie britannica, Little Britain, da cui attinge moltissimo, in cui sono una serie di situazioni che qui sono riprodotte da Biggio e Mandelli, lì sono riprodotte dai comici inglesi, in cui viene lasciata filtrare in televisione la gerontofilia, c'è uno che corteggia una vecchia nonna, c'è una coppia di omosessuali che vogliono rimanere incinte e fanno i test di gravidanza, insomma vengono demistificate una serie di luoghi comuni. Nei soliti idioti esiste, fra i vari personaggi, i vari gag, c'è anche la coppia di omosessuali, che è di una cattiveria bestiale, è la prima volta vengono veramente, giustamente, nella necessità e nel giusto diritto di essere trattati come ogni altro essere umano, vengono trattati male. Ce n'è uno che vuole rimanere per forza incinta nel reparto maternità, finge le doglie, il dottore che dice: senti, se ne vada, gli mostra un'ecografia rubata a un'altra donna, capito? E lui dice: ce la prendi per me perché sono omosessuale. Sempre questo è il ritornello. Quindi sono profondamente e radicalmente cattivi. Come si sa, la gente subisce il fascino del criminale e quest'uomo è naturalmente un criminale. E c'è su? Era forse quello stinco di santo che si dice giù? Esaminiamo i due personaggi. Osama Bin Laden, per non farsi trovare dove si nascondeva in una grotta. E non è forse vero che anche il nostro signore Gesù si è nascosto in una grotta? Ma dico io, ma c'ha bisogno di nascondersi in una cantina con le bestie se si ha la coscienza pulita? Io dico di no. Eppure io. E non è forse vero che Gesù era ricercato numero uno dell'impero romano, il più pericoloso? E quando l'hanno beccato, non l'hanno forse malmenato, infiltrato e frustato e poi crocifisso? E perché l'hanno crocifisso? Per divertimento? Certo, c'ha niente da fare. Ecco, questo è forse veramente l'aspetto più terribile e detestabile secondo il pensiero comune. Sono due giovani pretini che hanno avuto l'incarico di ridare un po' l'immagine generale alla Chiesa, e fanno continuamente delle presentazioni. Si vede sempre di spalle sulla sua sedia, si vede solo lo zuccotto bianco, il Papa con tutti i cardinali intorno, e loro cercano di convincere che bisogna cambiare la strategia della comunicazione, usando abomini del genere, capito? Bisogna rilanciare Gesù come Bin Laden, ma si fanno, fanno un festival, vogliono riproporre il Vangelo in cui Gesù è un supereroe, delle cose abominevoli. La cosa terrificante è che tutti questi cardinali che ascoltano, sentono, colpiti a volte anche irritati a questa cosa qui, ma nessuno li prende e li sbatte via. Questi continuano a proporre paradossi uno dietro l'altro. Sì, recupero anche l'accento ciociaro di Don Buro, Christian De Sica, insomma. Forse un po' facile come, cosa, come satira, ma allo stesso tempo comunque più eversiva di Habebus Papam, comunque più velenosa, comunque più tagliente. Però tornando al discorso generico, cioè, c'è una crudeltà etica dell'artista, cioè, che non è cattiveria di fondo, ma è una sorta di bontà estrema, cioè la capacità di aprire gli occhi attraverso il linguaggio, di andare al fondo, al nudo, al nervo della verità. Questa è la grandezza. Ci chiama l'ascoltatore Andrea, so già cosa starà per dire, premetto, molti ci stanno telefonando ponendoci come atti di cattivismo atti veramente criminali. Io sto parlando di un esercizio retorico della parola, della fabulazione, del porsi nei confronti delle persone. Uno ha chiamato dicendo che lui prende la sua collega di ufficio e la spenzola fuori del balcone, è un atto criminale, non è un atto di cattiveria intesa come lettura alternativa a un buonismo letterario. Sentiamo Andrea cosa c'ha da dire. Ma buongiorno, io per lavoro sono sulla strada a mezza giornata perché praticamente faccio il consulente d'impresa, e siccome sono sulla strada continuamente, io cerco di essere di quelli che quando trovo il semaforo che il limite a 50 vado a 50 all'ora. Sì. Io odio da Emiliano Romagnolo quello che noi chiamiamo i patacca, cioè quelli che fanno inutilmente dei gesti di spavalderia, di cui uno, un classico, è questo: superare tutta la fila, come mi sta succedendo adesso a Casalecchio. Sì. L'intera fila che è ferma al semaforo per mettersi oltre il semaforo. E lei cosa fa in quel caso? Se questo non vedi il semaforo gli suona il clacson, così lo fa schiantare. Beh, verde e passa. Allora, questo raccontandolo come un esempio tratto dalla letteratura può anche far sorridere, farlo nella realtà significa poter creare degli incidenti mortali, quindi direi che non è proprio fra le cose che questa mattina volevamo noi raccontare e spiegare. Ci sentiamo domani. Alors tous deux on est parti dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.